come va. Non ti sento da un'eternità. Tutti sempre occupati a stare galli in questa società. Può affogare, tanto male non fa. Lo diceva pure Pa. Tutto cambia, tutto cambierà. E noi sempre fissi a ricordare cose che ci fanno ancora sognare. Destinate prima o poi a svanire. Va il nostro impero morendo, soppiantati noi padroni di questo millennio. Sembra così male, basta un guardaroba nuovo e i CD su uno scaffale. Fare finta di essere intellettuale e sapere prima di studiare. Chiudi gli occhi e lasciati portare, come in discoteca su un locale. Sembra assurdo, ma c'è tu. Conservatorio, everyday. E adesso non sai più chi sei. Notte insonni per un ideale da raggiungere o da realizzare, perso in una crisi esistenziale. Cellulari, Bosch o ai cartelli, chiusi nei giubbotti bohemien. Pentagrammi bianchi da sporcare o diari vuoti da riempire, di peccato di emozioni vere. Sorpassati dalla moda del momento, ma che ingiustizia è questa, siamo ancora in tempo. Si potrà cambiare, occhi aperti, evitando di sognare. Passi le giornate a lavorare, ma allo stesso tempo puoi troppo incatenare. Forse in bene si potrà cambiare. Oh.